tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bombat, benvenuti a una nuova puntata del notiziario anticlericale. E saluti anche ai compagni di Firenze e, di Bologna e di Genova, radio collegate. Quindi ricordiamo il nostro sito www.giordanobrunomi.wordpress.com con motore di ricerca. Il calendario anticlericale 2021 è in distribuzione. Per richiesta info@sicilialibertaria.it. Sconto il 30% per chi ordina più di 5 copie. Iniziamo con i misfatti clericali, partendo appunto sabato 12 dicembre dalla strage di Piazza Fontana, che secondo noi fu strage clerico-fascista di Stato, in quanto tutti i ministri degli interni, che sono i mandanti ultimi dei funzionari di polizia che hanno depistato e hanno collaborato con i fascisti alla strage, erano tutti democristiani. Addirittura Restivo era figlio di un deputato ancora dell'epoca fascista. Quindi scudo crociato, fascismo di Stato. Abbiamo poi un nostro comunicato stampa. Aprire gli archivi della NATO relativi almeno a prima del 1970. Per avere una chiara e quasi definitiva visione storica dei mandanti e degli esecutori materiali della strage di Piazza Fontana a Milano, è indispensabile che gli storici e giornalisti d'inchiesta possano finalmente accedere anche agli archivi della NATO. Dopo oltre 50 anni sarebbe ora che tale organizzazione si decidesse ad aprire i suoi archivi. La libertà non è un concetto astratto, ma si basa innanzitutto sulla libertà di stampa, per cui passato un certo numero di decenni, ogni documento deve essere reso accessibile e pubblicabile dagli storici e dai giornalisti d'inchiesta. Ogni ulteriore rinvio non trova alcuna ragionevole giustificazione. Perfino il Vaticano ha desegretato molti documenti compromettenti dei clerico-fascisti Pio XI e Pio XII. I milanesi e gli altri cittadini italiani non vorrebbero che si ripetesse quanto accaduto agli atti del processo della monaca di Monza, desecretati dalla diocesi dopo oltre 350 anni. Passiamo poi ai pedofili ecclesiastici sempre attivissimi. La Repubblica dell'11 dicembre ha pubblicato un appello avviso a pagamento. Santo Padre Francesco, noi ti imploriamo, ti chiediamo di pregare e rivolgerti con preoccupazione alla storica diocesi di New Orleans, Louisiana. Nel maggio 2019 ci è stato chiesto di fornire ulteriori prove relative ai preti pedofili. Ci rivolgiamo direttamente a Papa Francesco, eccetera, eccetera. Santo Padre, vedi di chiarire questi abusi da parte dei religiosi. In qualità di vittime, preghiamo di ordinare di dare tutte le informazioni alle vittime e ai loro familiari. Supplica pubblicata appunto sulla Repubblica dell'11 dicembre. C'è un sito da consultare www.lukechapter17linetta2.com. Passiamo alla Valcamonica. Darfo, confermata la condanna a Don Blanchetti, l'ex parroco accusato di abusi sessuali a un ragazzino. 4 anni e 8 mesi, questa è la pena contro il prete pedofilo. Trapani, sacerdote, da cronaca vera dell'8 dicembre. A Don Sergio Librizzi, oggi 64enne, era affidata l'importante carica di direttore della Caritas. Ma secondo le accuse, il religioso approfittò del suo ruolo per commettere una lunga serie di abusi sessuali. Abbiamo poi il prete assassino, da cronaca vera dell'8 dicembre. Il prete condannato per omicidio. Il 13 dicembre 2019 la Corte d'Assisi di Trieste condanna 21 anni e 6 mesi Don Paolo Piccoli, sacerdote accusato dell'omicidio di un altro prete. I preti si uccidono tra di loro molto spesso, come ho riscontrato nei miei pluridecennali studi di storia della Chiesa. Catania, ucciso fratello Leonardo, sempre vicino ai malati di AIDS, ucciso proprio in questi giorni da certo Paolo Bastianini di origini toscane o genovesi secondo per motivi personali, poi vedremo insomma dal processo cosa salta fuori sui motivi. Passiamo oltre al caso Ior, chiesti 8 anni di carcere per l'ex presidente Calòia. La condanna a 8 anni per riciclaggio, autoriciclaggio e peculato è stata chiesta dal vice promotore di giustizia Vaticano Alessandro Diddi. Vediamo l'affarismo del Vaticano. Prete, se lo conosci, lo eviti. Veniamo alla Polonia, dove c'è un grosso scontro fra clericali e anticlericali. Il paese più cattolico d'Europa, attraversato da grandi proteste di strada contro il governo e contro la Chiesa, un vento di libertà dal venerdì di Repubblica dell'11 dicembre. Dopo lo scandalo pedofilia, i credenti non si fidano più dei vescovi. Lo scandalo delle coperture della curia ai preti pedofili ha fatto crollare il prestigio dei vescovi polacchi. Invece un bel articolo su queste lotte delle donne e delle vittime dei preti pedofili. Da segnalazioni orali di un compagno di Bollate, in un convento del Saronnese sarebbero stati trovati qualche anno fa molti scheletrini di bambine vittime di aborti o infanticidi da parte di certe monache lussuriose. Passiamo poi alla famosa pillola Ellaone. E niente ricetta per le minorenne, ma la pillola dei 5 giorni, ovviamente, come tutte le medicine, deve essere assunta con attenzione. Quindi attenzione alle dosi e all'uso corretto di questo prodotto, in quanto i clericali poi ne approfitterebbero se succedesse qualche disguido. Abbiamo poi qualche dato statistico, sono resi noti i dati del 2018. Aborti in Italia 76.328 in calo, 20,8% aborti effettuati con la nuova pillola RU486 e 260.000 le confezioni della pillola dei 5 giorni Ellaone vendute nel 2018, mentre nel 2015 erano 145.000. Rilanciare l'anticlericalismo, avanti con l'ateismo, lotta dura per la laicità delle istituzioni. Attenti poi non solo ai preti, ma anche ai falsi preti, no? Qui proprio dal notiziario, un periodico lombardo dell'11 dicembre, condannati due falsi sacerdoti che truffavano con finte pepite d'oro. Disgrazie clericali a Betlemme, Betlemme invece di subire dei miracoli, visto la presunta nascita divina, è molto colpita dal Covid, ne hanno parlato i giornali. Tornando ai preti pedofili, quel convento svuotato, padre Zanotti se n'è andato dal periodico Valcamonica e che è sotto processo questo prete per abusi sessuali. Insomma, vedremo. Intanto è stato svuotato il convento. Disgrazie clericali, a Pisogne, scavi nella pieve, emerge uno scheletro. Potrebbe essere una truce vivente, vicenda clericale, ma anche un semplice disperso dell'alluvione del 53 che colpì moltissimo la zona vicina a questa chiesa, che invece di proteggere i suoi fedeli, questa Santa Maria in Silvis, vide la strage di ben 11 abitanti dei paraggi. Viva il libero pensiero, ora e sempre resistenza anticlericale. Passiamo al piccolo dizionario di terminologia anticlericale. Costrizione della coscienza è un dogma della cristianità volto a obbligare il fedele a seguire tutte le sue prescrizioni. Covo di furfanti. Così era definito il Vaticano, specialmente negli ultimi anni del papato di Paolo VI, dal libro Discepoli di verità all'ombra del Papa Infermo, Caos Edizioni. Passiamo ora a qualche data dal mio calendario anticlericale. 5 dicembre, squilibrato irrompe nella chiesa di San Luca a Milano, minacce, pugni e sputi al prete. 12 dicembre 1680, condannati al rogo i libri dell'ex gesuita francese Louis Marbourg, eretico gallicano. 13 dicembre, tempesta anticlericale colpisce processione di imbarcazioni per reliquie di Santa Lucia, fedeli affogati. 14 dicembre 1938, l'Osservatore Romano riporta senza commento un nuovo gravissimo decreto nazista antisemita, connivenza. 15 dicembre 1979, il teologo Hans Kuhn estromesso da tutte le facoltà cattoliche per eresia.